come se mio nonno avesse 5 figli e dicesse uno è molto intelligente. Questo è il problema, capito? Nel guardare a queste medie imprese di successo, di cui tutto quello che dice RS Mediobanca da quando è venuta fuori questa tematica che loro hanno tirato fuori, è vero, è verissimo, cioè lo fanno molto bene, l'hanno fatto bene, hanno fatto molto bene a puntare il cannocchiale su queste. Ma imprese. Lei dice ma? Però sono poche, perché qui stiamo parlando del 25% dell'occupazione con tutto l'indotto, e lei le voglio aggiungere che ciascuna di queste imprese non solo prende l'80% da fuori, ma attiva 200-250 fornitori, sì, certo, che è un numero gigantesco e fa capire quanto sia frantumato il resto. La frantumazione del resto e il malessere delle grandi imprese sono i problemi italiani. Quindi se ci vogliamo concentrare sul successo facciamo benissimo, però dobbiamo sempre tenere in conto le relatività di chi stiamo parlando. C'ho 5 figli di cui uno è molto intelligente e gli altri 4 si ricampano, per modo di dire, quello molto intelligente. Infatti pagano un sacco di tasse, ma anche io pago molto più tasse del mio collega tedesco. Perché? Perché siamo ormai una nazione di poveri e la nostra tassazione colpisce tutti, colpisce i pensionati che in Germania non pagano le tasse e comincia molto prima. Una volta io dissi stupidamente a un mio collega: perché non cominciamo a fare come in Germania, che si tassa da 40.000 euro in poi? Dice sì, così non ci rimane nessuno. Ma lo sai quanti sono quelli sopra i 100.000 euro? Sono l'1% da tutta la tassazione italiana, e quelli che guadagnano 1 milione di euro sono 1.000 persone in Italia, si possono mettere in una stanza. Quindi lei dice, in definitiva, non è poi troppo ingiusto che le 4.500 medie imprese italiane, quelle che sono più patrimoniali eccetera, poi abbiano anche tax rate reali così elevati? Non è ingiusto, è la realtà, perché il fisco italiano ha la caratteristica di fare come quel poliziotto che cercava il reo sotto il lampione, perché ci si vede. Chi è visibile viene tassato.